grande padre, mi hai salvato dalle forze del male. E giunga la voce tua potente per portare il messaggio che tu sei il figliuolo di Dio, il Padre onnipotente in noi, che ci guida con la sua potenza infinita. Grazie Padre, mi hai donato il tuo grande amore, luce è potente e schiarisce ogni cuore, perché tu sei il figliuolo di Dio, il Padre onnipotente in noi, che ci guida con la sua potenza infinita. Che scaccia ogni male, dei sentieri tu hai aperto per noi, del tuo regno infinito, per far sì che noi entriamo con te nel tuo grande paradiso del cielo, e ci reggi con la tua potenza infinita. Voce tua potente per portare il messaggio che tu sei il figliuolo di Dio, il Padre onnipotente in noi, che ci guida con la sua potenza